Pippi gioca a rincorrersi con la polizia. Ben presto, nella cittadina, si sparse la notizia che una bambina di 9 anni abitava tutta sola a Villa Villa Colle. Le comari si trovavano d'accordo nel dire che così non si poteva andare avanti. Tutti i bambini, infatti, devono avere qualcuno che si preoccupi di far loro le prediche e tutti i bambini devono andare a scuola a imparare la tavola pitagorica. Perciò le comari decretarono che la ragazzina di Villa Villa Colle dovesse essere messa in collegio. Era un bellissimo pomeriggio e Pippi aveva invitato Tommy e Annika da lei a prendere il caffè con i biscotti allo zenzero, apparecchiando sui gradini della veranda. Il sole illuminava ogni cosa. E i fiori del giardino di Pippi mandavano un intenso profumo. Il signor Nilsson saliva e scendeva velocemente lungo le colonnine della veranda e di tanto in tanto il cavallo sporgeva il muso per chiedere un biscotto. In fin dei conti è davvero meraviglioso vivere, disse Pippi, stirando le gambe più che poteva. Proprio allora, due poliziotti in alta uniforme entrarono dal cancello. «Olà!» esclamò Pippi. «Ma allora anche oggi è un giorno fortunato, i poliziotti sono proprio la mia passione!» Naturalmente dopo la crema di rabarbaro. E corse incontro ai poliziotti, col visino illuminato d'entusiasmo. «Questa sarebbe dunque la bambina che ha traslocato a Villa Villa Colle!» si informò uno dei poliziotti. «Tutto al contrario!» rispose Pippi. «Questa è una sua minuscola prozia che abita al terzo piano dalla parte opposta della città.» Disse così soltanto perché desiderava scherzare un po' coi poliziotti, ma quelli mostrarono di non divertirsi affatto. La invitarono anzi a non fare la spiritosa. Informarono poi che delle persone gentili in città si erano date la pena di trovarle una sistemazione in un collegio, o meglio, in una casa del bambino. Io sono già sistemata in una casa del bambino, disse Pippi. Come? E che dire? Era già tutto stabilito, esclamò uno dei due poliziotti. E dove sarebbe dunque quest'altra casa del bambino che dici tu? Qui, rispose Pippi con fierezza. Io sono una bambina e questa è la mia casa. Non si tratta dunque di una casa del bambino? E quanto a sistemazione, vi assicuro che sono sistemata proprio comodamente, Ma bimba mia, disse il poliziotto sorridendo. evidentemente non mi sono spiegato bene. Tu devi entrare in una vera casa del bambino e avere qualcuno che ti controlli. Si possono tenere cavalli nella vostra casa del bambino? Chiese Pippi dubbioso. Certo che no, Rispose il poliziotto. Proprio come pensavo, disse Pippi, scura in volto. E scimmie? nemmeno. Ah, è così? Sbottò Pippi. E allora andate da un'altra parte a cercarvi dei bravi giovanetti adatti alla vostra casa del bambino. Io non mi ci trasferisco di sicuro. Ma non capisci che è necessario che tu vada a scuola? Disse il poliziotto. Perché dovrei andare a scuola? Per imparare tante belle cosine. Che tipo di cosine? Si informò Pippi. Tutto ciò che è possibile imparare, spiegò il poliziotto. Una enorme quantità di nozioni utili, come la tavola pitagorica, per esempio. Me la sono cavata perfettamente per ben 9 anni, anche senza bisogno della tavola piragotica, disse Pippi. E posso continuare nello stesso modo. Sarà, ma immagina quanto ti peserà la tua ignoranza quando sarai grande. Qualcuno magari arriva e ti chiede qual è la capitale del Portogallo e tu non sai rispondere. Certo che so, esclamò Pippi. C'è un'unica risposta per un tipo simile. Se proprio muori dalla voglia di sapere come si chiama la capitale del Portogallo, per carità, scrivi subito in Portogallo e chiedi. Ma non pensi che ti sentiresti un po' mortificata a non saperglielo dire tu stessa? Può darsi, disse Pippi. Può darsi che mi capiti di rimanere sveglia fino a tarda notte a furia di chiedermi: ma come diavolo può chiamarsi la capitale del Portogallo? Beh, non ci si può sempre divertire, concluse. E si mise a testa in giù sulle mani per un po'. Del resto sono stata a Lisbona con mio papà, aggiunse, continuando a rimanere con la testa in giù e le gambe in su, perché tanto riusciva benissimo a discutere anche così. A questo punto, però, uno dei poliziotti disse: Poche storie. Pippi non doveva credere di poter fare tutto quello che voleva, doveva seguirli alla casa del bambino. E avvicinatosi a Pippi, la prese per un braccio, ma lei si liberò con sveltezza e dandogli un colpettino sulla spalla disse: Preso! Prima che il poliziotto battesse ciglio, lei era saltata sulla ringhiera della veranda e in due balzi aveva raggiunto il balcone del primo piano. Siccome i poliziotti non avevano proprio nessuna voglia di seguirla per la stessa via, si precipitarono in casa e salirono per la scala correndo al piano superiore. Ma quando finalmente giunsero sul balcone, Pippi si trovava già a metà tetto e si arrampicava su per le tegole, meglio del signor Nilsson. In un attimo fu in cima e saltò agilmente sul comignolo. Affacciati al balcone, i due poliziotti si grattavano la testa. Sul prato, nel frattempo, c'erano Tommy e Annika che guardavano in alto. «Com'è divertente giocare a rincorrersi!» gridò Pippi. «E com'è stato gentile da parte vostra di venire qui! Lo dicevo io, oggi è un giorno fortunato!» Dopo averci pensato un po' su, i poliziotti erano andati a prendere una scala. L'appoggiarono al muro e vi si arrampicarono uno dietro l'altro con l'intenzione di raggiungere Pippi. Ma si vedeva che avevano una paura da matti quando si incamminarono sulla cresta del tetto. E tenendosi in pericoloso equilibrio tentarono di avvicinarsi a Pippi. «Non dovete aver paura!» gridò loro Pippi. «Non c'è pericolo! Si fa per divertirsi!» I poliziotti erano ormai a due passi da lei quando Pippi saltò dal comignolo e fra strilli e risate corse lungo la cresta del tetto fino all'altra estremità. Da quella parte, a pochi metri dalla casa, cresceva un albero. «Attenti! Mi butto!» strillò e si tuffò nella chioma verdeggiante dell'albero, afferrandosi subito a un ramo. Dondolò un po' avanti e indietro, poi si lasciò cadere sul prato e appena toccata terra corse dall'altro lato della casa e tolse la scala. I poliziotti erano già rimasti con un palmo di naso quando Pippi si era tuffata. Figuratevi poi come rimasero quando, dopo aver rifatto il cammino percorso, sempre bilanciandosi penosamente sulla cresta del tetto, si accorsero che la scala era scomparsa. Divennero furibondi e urlarono a Pippi, la quale stava da basso e li guardava, che si decidesse immediatamente a rimettere la scala, altrimenti ne avrebbe viste di peggio. «Ma perché vi arrabbiate così?» chiese Pippi in tono di rimprovero. «Stiamo solo giocando, no? Siamo amici!» I poliziotti confabularono per un istante tra loro e infine uno disse, piuttosto imbarazzato: «Senti un po', vorresti essere tanto cortese da rimetterci la scala che si possa scendere?» «Ma certo», rispose Pippi e subito la rimise. «Così poi ci beviamo il caffè tutti in compagnia e ce la spassiamo ancora un po' insieme». Vedete però quant'erano subdoli quei poliziotti. Appena arrivati a terra, si precipitarono addosso a Pippi gridando: «E adesso a noi, peste di una bambina!» Ma Pippi allora: «No, adesso non ho più tempo di giocare con voi!» Anche se prima era proprio divertente. Nel dir così, afferrò i due poliziotti per il cinturone e, sgambettanti, li trasportò lungo il viale del giardino e oltre il cancello fino in strada. Qui li depositò a terra e ci volle parecchio prima che riuscissero a muoversi. «Un momento!» gridò Pippi e scappò in cucina. Quando ritornò, aveva in mano un paio di biscotti allo zenzero a forma di cuore. «Volete assaggiarli?» chiese. «Fa niente se sono un po' bruciati, no?» Poi ritornò da Tommy e Annika, che avevano assistito a tutta la scena con gli occhi sbarrati. I due poliziotti tornarono in città più in fretta che poterono e comunicarono a tutte le comari di aver trovato Pippi non proprio adatta per una casa del bambino. Naturalmente non accennarono al tetto. Così le comari conclusero che forse era davvero meglio lasciare che Pippi continuasse ad abitare a Villa Villa Colle, che se poi avesse sentito il desiderio di andare a scuola, si sarebbe decisa spontaneamente. Pippi, Tommy e Annika passarono un pomeriggio davvero divertente. Ripresero come prima cosa a bere il caffè. Pippi ingoiò 14 biscotti e infine sentenziò: «No, quelli non erano il tipo di poliziotti che piacciono a me. Troppi, troppi discorsi sugli asili, sulle mortificazioni e su Lisbona». Dopodiché sollevò il cavallo, depositandolo in giardino, per montarlo in tre. Dapprima Annika aveva paura e non voleva, ma quando vide quanto si divertivano Tommy e Pippi, si lasciò sistemare in groppa tra i due. E il cavallo trottò pesantemente tutto intorno al giardino. E Tommy cantò: «Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo!» Tommy e Annika si erano appena infilati sotto le coperte quella sera, quando Tommy disse: «Annika, non ti sembra bello che Pippi si sia trasferita qui. E come? Sai, non riesco nemmeno a ricordarmi a che cosa giocavamo prima che lei venisse. E tu? Ma sì, a croquet e a cose simili, rispose Annika. Ma tutto è tanto più divertente con Pippi, coi cavalli e tutto il resto. Shh.